Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Un caloroso saluto da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua, Antonio, come ogni domenica, a tenere un po' di compagnia ai nostri ascoltatori. E speriamo che sia sempre interessante, diciamo, anche per loro. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera, segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Questa sera abbiamo un ospite virtuale, un accademico, diciamo, è una docente del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, che ci parlerà di un argomento estremamente interessante, che è l'orto botanico di Parca. Esattamente. A breve, adesso mettiamo la prima canzone e poi la sentiremo. La prima canzone è Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo. Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per far la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore. Ed eccoci in studio con i nostri ascoltatori e con la nostra ospite virtuale che andiamo a presentare, è la professoressa Barbara Baldan del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, viceprefetto del Centro Ateneo Ortobotanico, argomento di questa sera. Buonasera professoressa Baldan. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera professoressa. Buonasera. Buonasera. Ecco, allora noi andiamo velocemente, diciamo, a iniziare con una domanda che è quella primigenia, diciamo, ecco. Allora, dottoressa, quali sono le origini e l'importanza dell'orto botanico? L'orto botanico di Padova è stato fondato nel 1545 e fu fortemente voluto da un professore che si chiamava Francesco Bonafede, e che a quel tempo all'Università di Padova insegnava agli studenti di medicina a riconoscere le piante medicinali che poi dovevano usare nell'esercizio della loro professione. Questo insegnamento era teorico, quindi questi studenti studiavano sui testi, questi testi erano antichi, venivano appunto da testi greci, tradotti, copiati, quindi le descrizioni erano molto molto imprecise. Quindi il professor Bonafede si rende conto che gli studenti non potevano imparare a riconoscere le piante in questo modo e chiede all'Università di Padova di acquistare un terreno per la coltivazione delle piante medicinali, in modo che gli studenti potessero osservare direttamente le caratteristiche di queste piante. L'Università di Padova si appoggia alla Repubblica Serenissima di Venezia e con l'appoggio appunto e una delibera che viene siglata, firmata il 29 giugno 1545, si decide di acquistare un terreno vicino alle mura di Padova, quindi tra il Sant'Antonio e la Basilica di Santa Giustina. Questo terreno era proprietà del monastero di Santa Giustina e già i monaci coltivavano piante medicinali. Noi sappiamo che a quel tempo esistevano gli orti conclusi, cioè gli orti dei monasteri, e quindi c'era già un terreno, diciamo, adatto per la coltivazione. Inoltre questo terreno era circondato dall'acqua perché scorre vicino all'orto botanico il fiume, il piccolo fiume che si chiama Alicorno. Quindi l'approvvigionamento d'acqua era assolutamente garantito, assicurato. Sì. Ecco. Quindi già l'anno successivo, 1546, l'orto botanico è fruibile agli studenti di medicina. E molto caratteristica è anche l'architettura dell'orto botanico, quindi ha delle caratteristiche molto precise perché è pensato proprio per essere didatticamente fruibile. Quando entriamo nell'orto botanico, all'interno del muro che lo circonda troviamo una struttura molto particolare, quindi ci sono i quattro viali che dividono la circonferenza delimitata appunto da un muro in quattro quarti, in quattro settori, all'interno dei quali troviamo delle piccole aiuole che vengono chiamate parcelle. Ogni aiuola ospitava una pianta, una specie, quindi lo studente poteva, entrando e camminando in prossimità di queste aiuole, riconoscere, studiare, fermarsi, annotare alcune caratteristiche della pianta che poi avrebbe discusso le sue osservazioni con il professor Bonafede, che teneva lezione ovviamente nei pressi del Bo o al Bo stesso, quindi o spesso il docente veniva anche in orto botanico e lavorava insieme ai suoi studenti. Abbiamo per esempio una testimonianza di un piccolo taccuino del 1591, quindi pochi anni dopo la formazione della fondazione dell'orto botanico, in cui vediamo l'annotazione di questo studente che passava di aiola in aiola e, oltre al nome della specie, faceva delle piccole annotazioni che davano le caratteristiche della pianta. Quindi questa struttura iniziale ad aiole organizzate in quarti all'interno di una circonferenza è quella originale e la vediamo ancora oggi. Sì, allora devo dire qualcos'altro. Sì, no, ecco, volevo appunto entrare per integrare un po' con una lettura così, diciamo, quanto esposto. All'inizio del Settecento vennero realizzati i quattro monumentali portali d'ingresso dell'Hortus Cintus. In tempi successivi l'orto si estese fino ad occupare anche l'area esterna al muro circolare. Nella prima metà dell'Ottocento furono inserite tre meridiane, una cubica, una sferica e una cilindrica. Fu costruita un'aula ed emiciclo della capienza di 100 studenti, detta Teatro Botanico, tuttora in uso per lezioni e riunioni. Sul cornicione del Teatro Botanico furono collocati i busti di eminenti studiosi. Il grande edificio in prossimità dell'ingresso, che risale ai secoli XVII-XVIII, era un tempo destinato ad abitazione del direttore dell'orto, tradizionalmente denominato prefetto. Oggi la palazzina ospita al piano terra spazi destinati a esposizioni museali, al primo piano la biblioteca storica, l'archivio dell'orto botanico e l'erbario, mentre al secondo piano si trovano la direzione ed altri locali adibiti alla conservazione dei semi. Gli alberi, ecco, degli alberi nell'orto patavino vivono alcune piante notevoli per la loro vetustà, normalmente indicate come alberi storici, il più antico dei quali, se non ricordo male, è una palma di San Pietro. È vero? Sì. Sì, allora, la palma di San Pietro è conosciuta con il nome scientifico di Camerops humilis e in natura questa palma è una palma nana, la troviamo in tutti i nostri giardini e non raggiunge mai più di 2 metri, 2,5 metri di altezza. Ah, ecco, sì. La palma che possiamo ammirare all'orto botanico è stata piantata nel 1585 ed è sempre stata protetta da una serra, inizialmente una serra mobile, poi una serra che è stata costruita in muratura e per esempio nel 900 è stata alzata un paio di volte per seguire proprio la crescita della palma di San Pietro, che attualmente è alta quasi 12 metri. Oh, mamma mia, addirittura 12 metri. Sì. E quindi adesso siamo proprio in un momento in cui dobbiamo decidere che cosa fare, se alzare ancora la serra oppure tagliare parzialmente la cima della palma. Ipertrofica proprio. Sì, essendo protetta e riscaldata durante l'inverno, diciamo, è, passatemi il termine, coccolata anche dai giardinieri, e quindi questa palma veramente è custodita gelosamente proprio perché rappresenta la pianta più antica che abbiamo attualmente in orto botanico. Inoltre è famosissima soprattutto nel mondo, diciamo, tedesco, perché è soprannominata anche palma di Goethe. Perché è soprannominata palma di Goethe? Perché il famoso poeta tedesco, nel suo viaggio in Italia del 1786, di cui abbiamo uno scritto, era spesso a Padova, quindi tra Padova e Venezia lui si spostava, era affascinato dalla botanica perché oltre a essere un poeta era anche un eccellente scienziato, e quindi lui scrisse un piccolo trattato su questa pianta intitolato Sulla metamorfosi delle piante, in cui lui sosteneva o cercava di dare un'interpretazione al fatto che le foglie di questa palma, quando sono giovani, sono intere, quindi proprio la lamina è intera, poi invece quando la foglia matura diventa ventaglio, lacciniata è il termine scientifico, quindi diventa ventaglio e quindi subisce una metamorfosi, e lui era molto interessato a questo argomento perché stava difendendo una teoria che diceva che appunto tutte le parti di una pianta derivano dalla modificazione delle foglie, quindi questa palma lo aveva in particolar modo colpito perché andava incontro alle sue supposizioni, alle sue idee. Certo. Quindi diciamo che questa è la nostra pianta monumentale, la pianta a cui teniamo moltissimo. Benissimo, allora naturalmente per quanto concerne gli ambienti che sono ricostruiti, presumo siano un po', diano tutto lo spettro dei vari. Certamente, questo si è evoluto con il tempo, nel senso che all'inizio, come dicevo prima, l'orto è nato per ospitare piante medicinali, quindi la scienza botanica a quel tempo era pensata applicata alla medicina. Poi più tardi il tutto subisce un'evoluzione, la botanica diventa una scienza pura, una scienza di base, arriva nel 700 Linneo, poi Darwin, la teoria dell'evoluzione, quindi l'orto si è adattato a questo tipo di cambiamento, aggiornando sempre le collezioni, quindi da esclusivamente medicinale, con il tempo è diventato un, diciamo, conserva specie di provenienti da tutte le parti del mondo. Bellissimo. E bello. Ovviamente le piante sono presentate per famiglie, soprattutto nei quarti anche oggi, ma poi abbiamo delle collezioni tematiche, quindi per esempio le piante acquatiche che colonizzano l'ambiente acquatico, le piante insettivore che utilizzano questo particolare modo per procacciarsi l'azoto necessario alla loro crescita, abbiamo le piante velenose, per esempio una collezione di piante velenose con anche la descrizione in modo che il visitatore capisca quanto pericolose sono queste piante, per esempio l'aconito è contrassegnato con 3 croci, quindi è mortale, è mortale. E l'oleandro per esempio è contrassegnato con 2 croci, quindi è tossico, velenoso, bisogna stare attenti, ma non è così pericoloso. E poi per esempio abbiamo la collezione delle piante alpine, quindi la rocciera alpina in cui conserviamo tutta la flora che arriva dalle nostre Alpi e dagli Appennini. Ovviamente quando uno le vede non trova esattamente riscontro con quanto vede in montagna, per esempio la stella alpina, che in montagna è molto bassa, bianca, molto pelosa, qui invece raggiunge anche 30-40 centimetri di altezza perché si adatta alle condizioni climatiche di Padova e quindi subisce una trasformazione nel suo habitus. Benissimo, allora adesso noi interrompiamo un attimo per un ulteriore intervallo musicale e poi ci sentiamo. La seconda canzone è Where Do the Children Play di Cat Stevens. It's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Eccoci di nuovo in studio con la professoressa, con la dottoressa Baldan. Barbara Baldan. Allora, che rapporto c'è tra l'università e l'orto botanico? Questo è un rapporto strettissimo. L'università, come vi dicevo all'inizio, ha appoggiato la fondazione dell'orto botanico e l'ha sostenuto sempre in tutti i suoi quasi 5 secoli di storia, non ultimo l'impegno dell'università per la costruzione e l'ampliamento della parte nuova dell'orto botanico, di cui probabilmente parleremo tra poco. Esatto. Ecco, quindi l'università ha sempre tenuto ad avere nell'orto botanico appunto un modo di rappresentare l'Università di Padova, ma anche un modo per tenere contatti con tutte le altre università europee. L'Università di Padova, in particolare l'Orto Botanico, ha conosciuto per esempio un periodo d'oro nel 600, inizio del 600 fino al 700, abbiamo testimonianze di lettere, di scambi con illustri studiosi europei e contatti diretti con tantissimi altri orti botanici che nel frattempo, su esempio, su modello del nostro orto botanico di Padova, furono costruiti, per esempio in Olanda, a Leiden, troviamo un orto botanico che assomiglia parecchio al nostro orto, a Montpellier in Francia, e quindi il modello orto botanico di Padova come orto universitario pensato per la didattica, per l'insegnamento, è stato un modello, diciamo, molto molto copiato. Sì, sì. L'università poi appunto ha sempre mantenuto, perché una struttura del genere ha bisogno di essere continuamente messa in manutenzione, quindi abbiamo soprattutto la parte architettonica, poi ovviamente bisogna mantenere le collezioni, quindi l'università, diciamo, il centro, l'Ateneo centrale ha sempre cercato di favorire l'evoluzione, l'ampliamento delle collezioni, i rapporti con tantissime altre istituzioni. Quindi l'orto botanico e l'Università di Padova appunto sono riconosciute a livello mondiale, tanto è vero che nel 2013 l'orto botanico di New York ha ricostruito il quarto del ginkgo del nostro orto botanico all'interno di una loro manifestazione sulle origini e la diffusione della cultura botanica nel mondo. Quindi diciamo che l'università può tenere come fiore all'occhiello il suo orto botanico. Siamo orgogliosi, almeno sì, qualche, certo, primato di cui essere orgogliosi, diciamo. Sicuramente, anche perché non esiste nulla di paragonabile, almeno a mia conoscenza, in questo momento, insomma, nel mondo è ancora considerata la madre di tutti gli orti botanici, bene, universitari. E naturalmente vi si esercita la ricerca, che credo sia una cosa fondamentale per quanto vi concerne, diciamo, dal punto di vista didattico e comunque scientifico, o sbaglio? Certamente, è sempre stata esercitata la ricerca, anche perché i prefetti dell'orto botanico, quindi i direttori che si sono succeduti nel tempo, fino anche ai nostri tempi, erano inizialmente medici, e quindi loro sviluppavano proprio la ricerca a caccia di piante medicinali che potessero essere utilizzate. Funzionale anche alle cure, eccetera. Esattamente. Eccetera. Poi questi prefetti, soprattutto quelli dell'inizio, quindi del 600, erano anche viaggiatori. Quindi, però, per esempio, facciamo un esempio che forse possiamo conoscere, perché si tratta di un prefetto veneto, che è Prospero Alpini, prefetto fino al 1613. Lui era medico al seguito dell'ambasciatore, o del console, scusate, veneziano al Cairo. Quindi nei 3 anni che passò con il console al Cairo, descrisse una quantità grandissima di piante che ovviamente in Italia e in Europa non erano conosciute. Non solo le descrisse dal punto di vista botanico, perché appunto lui era di formazione un medico botanico, ma anche descrisse gli usi che ne facevano gli egiziani o i popoli del Nord Africa. E per esempio tra queste piante, una che conosciamo tutti benissimo, è la pianta del caffè. Quindi, c'è anche la pianta del caffè. Il caffè, sì, fu descritto da Prospero Alpini per la prima volta, e soprattutto l'uso che ne facevano appunto i popoli egiziani, e quindi questa descrizione fu poi considerata da altri studiosi e da prese piede, diciamo, in Europa, per cui a Venezia comparvero i primi caffè, in Europa, in Francia, a Parigi lo stesso, in Olanda, e il caffè divenne non solo la scusa per una pausa, diciamo, sì, o per curarsi, perché, sì, gli egiziani lo usavano anche per la cura di alcuni piccoli problemi fisici, come per esempio la costipazione, Però. Ma divenne anche, Prospero Alpini ovviamente non poteva saperlo, ma divenne anche qualcosa di che ha avuto un'influenza profonda nel sociale. Esatto. Quindi il caffè diviene luogo di la scusa di bere il caffè diviene luogo di incontro, luogo di scambio. Ci sono i famosissimi caffè parigini, i famosissimi caffè londinesi, dove il caffè era associato per esempio alle borse dove si facevano gli scambi economici. Le commodities, sì, sì. Diremo oggi. Sì. Esatto, quindi quando beviamo una tazzina di caffè dovremmo pensare al nostro orto botanico e a Prospero Alpini. Assolutamente, non è, come dire che non è impensabile. Ecco. Sì, quindi diciamo che la ricerca poi è continuata, ovviamente ha avuto un grande impulso nel periodo linneiano, quando è entrata in vigore la denominazione binomia delle specie, che quindi ha messo ordine nel modo di classificare le specie viventi, quindi anche le piante. Poi la ricerca è continuata, per esempio nei primi del Novecento il prefetto era Saccardo, che era un famoso micologo conosciuto a livello internazionale, quindi diciamo si è spostata un po' più sui funghi più che sulle piante, ma l'orto ha continuato appunto a far scambi con tantissime altre istituzioni europee. Diciamo poi che negli ultimi anni ha subito un rallentamento la ricerca in orto, perché i docenti di botanica che prima avevano sede nell'Istituto di Botanica, proprio che si affaccia sull'orto botanico, adesso sono al Dipartimento di Biologia e quindi non c'è stata più un rapporto, una ricerca diretta. Continuiamo comunque ad utilizzare materiale che viene dall'orto, ma diciamo che è un po' scemata l'attività di ricerca all'interno dell'orto. Con l'uovo orto vedremo poi questo tentativo oggi di dare un nuovo impulso proprio alla ricerca, che è alla base della diffusione della cultura botanica. Per diffondere qualcosa devi conoscerlo bene, quindi la ricerca è indispensabile. Senza ricerca non si certo. fa didattica. Non si certo, fa didattica, chiaramente. Certo. Ecco. Certo. Io vorrei leggere a questo punto un qualcosa che dovrebbe comunque, oltre a quello che abbiamo detto, inorgoglirci. L'orto è patrimonio dell'UNESCO. Okay. Nel corso dei secoli l'orto di Padova si è situato al centro di una fitta rete di relazioni internazionali, svolgendo un ruolo preminente nello scambio di idee, conoscenze, di piante e di materiale scientifico. Sulla base di queste considerazioni, nel 97 esso è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale, il World Heritage List, come bene culturale. Esso testimonia infatti uno scambio di influenze considerevoli nell'area culturale delle scienze e costituisce una testimonianza eccezionale di una tradizione culturale. La motivazione in base alla quale è stata presa la decisione del Comitato del Patrimonio dell'Umanità, cioè il World Heritage Committee, per l'inserimento dell'orto botanico di Padova nella lista è stata la seguente. L'orto botanico di Padova è all'origine di tutti gli orti botanici del mondo e rappresenta la culla della scienza, degli scambi scientifici e della comprensione delle relazioni tra la natura e la cultura. Ha largamente contribuito al progresso di numerose discipline scientifiche moderne, in particolare la botanica, la medicina, la chimica, l'ecologia e la farmacia. Essere un sito del patrimonio mondiale significa far parte di una comunità di 911 localizzazioni presenti in 151 paesi firmatari della convenzione, cioè il World Heritage Convention. Se posso aggiungere, certo. È un motivo d'orgoglio ovviamente, ma anche una grande responsabilità, perché far parte del patrimonio mondiale dell'umanità ci rende consapevoli appunto di questo impegno nella diffusione della cultura botanica certo. a tutti i livelli, non solamente a livello scientifico, ma anche a livello divulgativo. Esattamente. E quindi far parte del patrimonio vuol dire anche rendere consapevoli i vicini, tra virgolette, quindi sì, nel coinvolgimento certo. della gestione da parte dell'UNESCO abbiamo per esempio il comune di Padova, la provincia, la regione, quindi richiede tutta una rete di relazioni che devono sempre sì. Esatto, che sono fondamentali proprio nell'intento di divulgare il più possibile le nostre conoscenze. Certo. Benissimo. Sì, sì. Allora noi ci fermiamo sì. per un ulteriore intervallo musicale. Con Noi non ci saremo dei Nomadi. Dei Nomadi, esattamente. quanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà, le catene di molti coperte di neve saranno confini a foreste di abeti. Ma in mano d'oro le toccherà e solo il silenzio come un sudario si steglierà tra il cielo e la terra per mille secoli almeno. Oh no, ma ci saremo, no, no. E il vento d'estate di nuovo in studio con la dottoressa Barbara Baldà, alla quale volevo chiedere: ci puoi illustrare il progetto del giardino della biouniversità? Biodiversità. Sì, prima però di illustrare la parte strutturale volevo raccontarvi un attimo come è nata l'idea del giardino della biodiversità. E il visitatore che viene in orto botanico antico si rende conto che siamo circondati da case. All'inizio era fuori le mura l'orto nel 1545, ma ora si trova perfettamente integrato nel tessuto cittadino. Conclusus, potremmo dire. Sì. Esattamente, quindi con possibilità di espansione praticamente nulla. Inoltre, dalla riunione del 1997, da cui è scaturita la carta di Edimburgo, tra orti botanici, discussione tra orti botanici antichi su come ampliare, migliorare la possibilità di esporre collezioni in un orto botanico piccolissimo che rischia di diventare statico e rischia di diventare un museo, nel vero senso della parola. Certo. Quindi l'Università di Padova, e ancora qui si nota l'appoggio della nostra università, con molta lungimiranza nel 2000 è riuscita ad acquistare un terreno confinante con l'orto botanico verso la parte sud, verso la Basilica di Santa Giustina, terreno occupato prima dal Collegio Antoniano dei Gesuiti. In questo terreno c'erano gli impianti sportivi, quindi i gesuiti decidono di metterli in vendita. L'Università di Padova, con un grande sforzo e anche con un piccolo aiuto ministeriale, riesce ad acquistare il terreno. Quindi l'idea è ampliare l'orto per poter ampliare le collezioni, la diffusione, appunto, sempre con in mente questa missione, diffusione della cultura botanica per tutti. E quindi nel 2005 prende il via la gara di appalto europea per il progetto. Partecipano una ventina di progettisti da tutta Europa. Il progetto che risulta vincitore è un progetto italiano, principalmente con un piccolo contributo inglese, e il progetto ha delle caratteristiche molto particolari che adesso vi illustro. Prima, l'idea che sta sotto il progetto collegamento visivo tra le due basiliche, Santa Giustina e Sant'Antonio, mantenendo quindi l'idea iniziale del 1545. Vi ricordate, vi ho detto che il terreno era stato scelto tra queste due. A quel tempo l'idea, la filosofia era l'uomo al centro, siamo in pieno umanesimo, l'uomo al centro dell'universo, ma in stretto rapporto con il divino e con la natura. Esatto. Okay, quindi questo progetto nuovo mantiene questo ideale iniziale, questa idea iniziale. Seconda, le piante vengono presentate in questa unica serra che è lunga 110 metri, poi è separata al suo interno in 5 serre, presenta un viaggio ideale del visitatore dall'equatore ai poli. Quindi il visitatore che entra, e quindi questa è l'idea, seconda idea vincente del progetto, che entra in questa serra, comincia a trovarsi nell'ambiente tropicale equatoriale, con poi passaggio alla zona temperata, la zona arida, e in teoria, ma questa non è stata ancora realizzata, in futuro probabilmente ci sarà, la zona subpolare. Quindi il visitatore si rende conto di come sono i biomi della Terra, quindi come sono le varie zone, fasce climatiche e quale vegetazione c'è all'interno delle fasce climatiche. Non solo, l'esposizione delle piante è organizzata anche con criteri fitogeografici, quindi il visitatore si trova come avesse la cartina del mondo davanti, quindi troverà nella zona centrale le piante africane europee, a nord Europa, a sud Africa, nella zona di sinistra della serra troverà le piante americane, nella zona a destra della serra troverà le piante asiatiche. Siamo una visualizzazione proprio, esatto. Molto bella. Sì. Quindi, non so, penso che tutti lo sappiano che il clima mediterraneo non esiste per esempio solo qui da noi, ma esiste anche in Sudafrica e in Australia, quindi il visitatore può apprezzare piante tipiche della nostra zona mediterranea, ma può apprezzare anche piante australiane o piante sudafricane, che ovviamente crescono in quei particolari biomi. Quindi l'idea, la seconda idea, dicevo, vincente è questa. La terza è che questa struttura è realizzata il più possibile in modo ecocompatibile. Che cosa vuol dire? Che i progettisti hanno cercato di integrare questa grandissima struttura, che è molto bella, ma molto semplice come struttura, però è imponente. Hanno cercato di integrarla più possibile nell'ambiente e hanno usato degli accorgimenti. Per esempio, il tetto di questa serra non è di vetro, che renderebbe molto pesante e rischia di rompersi quando per esempio nevica o quando ci sono tempesta. Il tetto è realizzato con cuscini di una plastica trasparente riempiti di aria, per cui isolano perfettamente la serra e non sono pesanti. Tutta l'acqua che si vede all'esterno, perché ci sono delle cascate, ma tutta l'acqua che viene utilizzata per all'interno della serra è acqua riciclata, quindi abbiamo una vasca che raccoglie le acque piovane, che viene continuamente riciclata. Abbiamo anche un pozzo artesiano che pesca dalla falda acquifera a 280 metri circa di profondità, ma cerchiamo di economizzare il più possibile l'acqua messa a disposizione. Poi l'altro accorgimento, dove è stato possibile, ci sono pannelli solari, quindi siamo parzialmente autonomi per l'energia. E poi c'è un accorgimento particolare sia sul tetto della parte non serra, dove sono state piantate piante, quindi c'è un giardino pensile, e questo serve per diminuire la quantità di CO2 immessa nell'ambiente. Inoltre la pittura che è stata utilizzata è una pittura particolare che permette di abbattere ancora CO2 e in genere inquinanti che sono nell'aria. Quindi diciamo che la terza idea vincente del progetto è stata questa, cercare di rendere più integrata nell'ambiente la struttura che, diciamo, sì, è imponente, ma è anche molto leggera e molto bella da osservare. Quindi il visitatore al suo interno trova moltissime piante, sono 1000 circa 1000-1100 specie. Mamma mia, una cosa sbalorditiva. Sì. Molte le avevamo, quindi sono state solo trasferite dall'orto antico, dove magari erano in posizione, erano molto strette, perché per esempio le serre d'inverno erano strapiene, perché dovevamo portare all'interno moltissime piante, soprattutto le piante succulente. Quindi molte piante le avevamo già nell'orto, alcune ovviamente sono state acquistate, per esempio quelle delle zone tropicali, perché prima non avevamo la possibilità di avere il clima tropicale. Beh, certo, certo. Ecco, poi le serre si diciamo regolano sulla base di parametri impostati inizialmente, quindi si cerca un'impostazione generale, per esempio serra tropicale, che vada bene un po' per tutte le piante. E non appena uno dei parametri, intensità luminosa, temperatura, umidità, si modifica, parte tutto un sistema automatizzato di compensazione. Succede, per esempio, mi è capitato l'altro giorno che ero là, entrano in massa 2-3 gruppi di visitatori nella serra tropicale e parte immediatamente la nebulizzazione, quindi uno spray di acqua che permette di mantenere l'umidità. L'umidità, sì. Ecco, quindi ogni volta che viene modificato un parametro, per esempio troppa intensità luminosa, si chiudono delle tende bianche che sono state predisposte appositamente. Temperatura troppo alta, si aprono automaticamente i vetri. Quindi una volta impostati i parametri iniziali, poi la serra viene regolata automaticamente in risposta a variazioni di questi parametri, quindi risposta alle variazioni delle impostazioni iniziali. Sì, poi il visitatore all'interno della serra trova dei percorsi espositivi, non solo quindi le piante e l'ambiente, che è il primo percorso espositivo e che è quello che vi ho appena illustrato, ma poi trova anche un percorso espositivo che si intitola Le piante e l'uomo. Quindi in questo percorso espositivo il visitatore può interagire con diversi sistemi di comunicazione, quindi c'è il classico pannello con la descrizione. C'è il pannello interattivo, per cui è possibile schiacciare qualche bottone per fare delle domande e per esempio sul pannello si accende il, non so, uno chiede da dove arriva la patata e quindi c'è un mappamondo disegnato sì. E si accende la zona di origine della pianta. Splendido. Che bello, splendido. Oppure ci sono dei pannelli interattivi tipo touchscreen dove qualcuno può fare anche qui delle, diciamo, delle richieste guidate, per esempio c'è un pannello interattivo con una pentola, si sposta con un touch il prodotto che si vuole cucinare dentro la pentola e quindi compare, oltre a tutta una serie di informazioni scientifiche, dal nome, l'origine, che tipo di pianta è, compare per esempio anche una ricetta da utilizzare appunto per utilizzare questa pianta. Accattivante in modo straordinario anche per un vasto numero di spettatori e tipologie di spettatori, diciamo. Certamente, diciamo che il target è pensato soprattutto per la fascia giovanile, sì, però va benissimo anche per noi adulti o anche per chi ha qualche anno in più. Ma penso perché... senz'altro che sia interessante. Sì, anche perché le informazioni sono date in modo abbastanza sintetico, cioè per non annoiare non ci sono chilometri di frasi da leggere, certo. Ci sono dei flash sulle curiosità, per esempio come si è imparato a fare la carta, passaggio dal papiro alla carta utilizzata. Bellissimo. Dalla cellulosa. Bello, bello, molto interessante. Le piante che utilizziamo, quindi di nuovo il caffè, il tabacco, le piante che ci aiutano a curare il dolore, quindi ma non solo quelle che usiamo oggi, ma c'è anche la storia, come per esempio i popoli più primitivi hanno iniziato a utilizzare le piante. Per esempio l'uomo di Neanderthal si sa che sapeva fare una specie di tisana, usava la camomilla per esempio, oppure come si costruiscono le armi utilizzando legni, come si costruiscono gli strumenti, il violino per esempio, quanti legni servono, per tipi di legno servono per molto fare interessante. Straordinario. Sì, molto, ecco. Molto interessante. Non è casuale che mi pare siano, adesso io ho delle cifre che probabilmente sono datate, ma sono già passati più di 50.000 visitatori o sbaglio? Sì, la serra, il giardino della biodiversità è stato inaugurato in ottobre 2014. Mm-hmm. La struttura era stata consegnata in ottobre 2013, quindi abbiamo impiegato circa un anno per mettere a dimora le piante e per allestire questi due percorsi, le piante e l'ambiente e le piante e l'uomo. Da ottobre è stato un incessante via vai. Ecco, quindi questo un buon viatico per il futuro, diciamo. Penso che siano anche sottostimati, perché poi adesso che inizia la bella stagione, quindi si può abbinare l'orto antico con l'orto nuovo. Questa settimana, per esempio, ci sono anche degli eventi programmati alla sera e quindi sono pubblicizzati nel sito dell'università, e quindi spesso l'evento, diciamo, ovviamente attira moltissime persone, per cui è un modo per... In che cosa consistono questi eventi? In questa settimana sono programmati dei concerti, ma a volte facciamo delle conferenze, i laboratori didattici per i ragazzi di varie, delle varie scuole, quindi sono tutti pensati sempre riferiti a un tema. Per esempio, uno degli eventi di questa settimana è un concerto utilizzando come strumenti delle sezioni di legno, quindi dei dischi di legno tenuti da vari legni di piante diverse, quindi che hanno una sonorità diversa, e quindi si cerca di far apprezzare al pubblico la musica generata dal legno. Ho capito. Benissimo. Adesso noi ci fermiamo per un ulteriore intervallo musicale. E la canzone è Lo spirito degli alberi di Eros Ramazzotti. Esattamente. Spirito degli alberi si muove con le nuvole, respira nel tramonto e scende in me. Un canto lontanissimo carezza fiumi limpidi, cerca della vita e i suoi perché. Stanotte mi ha portato via con sé. Tu sei negli anni più veri, tu sei chi non c'è più, i miei ritorni a casa per la vita da bambino. Tu sei nei giorni di ieri, perso tanti anni fa, l'ansia mia di crescere, al tiro a segno della mia ingenuità, che nessun denaro mai ripagherà. Tu sei negli anni più veri, bambino. Tu sei nel tempo che va, da qui all'eternità, lo spirito degli alberi che insieme la mia età. Lo so che è un sogno, ma non svegliarmi che sto. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite per l'ultima tranche di questa interessantissima esposizione. Alla nostra ospite volevamo chiedere, è previsto, mi pare, che ne parlavamo anzitempo, del percorso per non vedenti. Sì, l'Orto Botanico di Padova dal 1991 allestisce un percorso speciale per i non vedenti e gli ipovedenti. E si tratta di un piccolo percorso limitato con le piante esposte in vaso, quindi collocate ad altezza d'uomo, diciamo a livello del fianco dell'uomo, in modo che le piante possano essere toccate, mm-hmm. annusate, e in modo, noi scegliamo le piante in modo che siano o molto profumate o che abbiano una forma caratteristica delle foglie, che magari pungano leggermente, che siano per esempio sì, piante sì, sì, con foglie pelose, in modo che il non vedente riesca a rendersi conto di che tipo di organismo ha davanti. Inoltre poi ogni pianta è corredata da un cartellino in braille, sì, che annota appunto la specie, la provenienza e il tipo di pianta. Inoltre tutti gli alberi più importanti, quindi per esempio la palma di Goethe che dicevamo prima, sì, il platano orientale, sì. E tutte le piante, il percorso delle piante velenose è contrassegnato da cartellini in braille. Molto bello. È una cosa interessante, è proprio un percorso multisensoriale, mi pare di capire, giusto? Certamente, quindi adesso stiamo anche cercando di vedere se riusciamo a realizzare qualcosa di analogo, oppure utilizzando adesso le nuove tecnologie, anche nell'orto, nel giardino della biodiversità, perché per il momento lì non è previsto ancora nulla, ma abbiamo già avuto dei contatti con l'Associazione Nazionale Ciechi, sì, sì. E quindi stiamo cercando di vedere come poter implementare, addirittura vedere se riusciamo nella parte nuova, perché è più facile realizzare lì, vedere di rendere autonomo l'ipovedente in modo appunto da poter svolgere in autonomia la visita all'orto botanico, magari con audio guide anche, cose di questo per tipo, per esempio. Ma ci sono anche tecnologie più avanzate, sì, esatto. per esempio collegate al telefonino oppure al bastone intelligente, per esempio, quindi fatto che loro si possano muovere in autonomia. Sì, certo. Certamente ci vorrà un po' di tempo per realizzarlo, però intanto è fruibile appunto il percorso a loro dedicato nella parte antica dell'orto botanico. È corredato anche di piantina in rilievo, per cui con il tatto loro possono anche orientarsi. L'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto a fine agosto ospiti un gruppo di giovanissimi non vedenti che hanno passato una settimana con noi e con i loro istruttori, quindi hanno imparato a muoversi quasi autonomamente all'interno dell'orto, certo. E hanno imparato le piante, dove erano localizzate. Poi è stato molto bello, il sabato, alla fine della settimana, hanno incontrato i loro genitori e sono stati loro a fare da guida ai genitori all'interno dell'orto botanico. Estremamente interessante, queste sono cose che vanno, come dire, divulgate, giustamente. Sì. Ci sono poche le occasioni, purtroppo, però diciamo, cogliamo proprio questa l'occasione che abbiamo per ringraziarvi per il lavoro che fate, che è straordinario. Diciamo, ecco. Poi pensiamo anche a volte, abbiamo anche utenti non udenti e quindi abbiamo lì siamo un po' più indietro, ma abbiamo delle guide che sanno il LIS, quindi si riescono a parlare il linguaggio dei segni e quindi si riesce a comunicare anche con loro. A spiegare, sì. Ecco, e quindi cerchiamo di prestare attenzione, per esempio adesso la parte nuova è anche molto attrezzata per portatori di handicap motori, quindi per esempio è possibile girare in tutto il giardino con la carrozzella, questo è molto problema. Sì, è molto. Niente, noi così non possiamo far altro che ringraziare sentitamente la professoressa Baldan come new entry del nostro palinsesto. E speriamo di avere occasione anche di sentirci di nuovo, perché l'esposizione è stata talmente, come dire, abbinata a un rigore scientifico, però una divulgazione chiara per molto tutti. Chiara, sì, e quindi io sono più che convinto che il nostro uditorio saprà apprezzare in modo straordinario. Ma senz'altro, e noi la ringraziamo tanto. La ringraziamo sentitamente. buon ringrazio lavoro. Voi, è stato un piacere. Buon lavoro e naturalmente cogliamo l'occasione per dire che sul sito di Blu Radio Veneto eccetera sarà disponibile il download o l'ascolto in streaming della trasmissione. Certo. Da lunedì, esattamente. Grazie, io vi invito, per chi non l'ha fatto, a visitare l'orto botanico. Giusto. Siamo sempre aperti. Benissimo. Bene. Grazie professore Sabarlani, buona serata. Buona serata anche a voi. E torniamo in studio con un'ultima chicca, diciamo, che è sempre relativa all'orto botanico, che è il rapporto con Expo 2015, quindi siamo in piena attualità. Nasce a Padova, ecco qui è un riassunto di un articolo che io ho trovato sulla stampa. Nasce a Padova, presso l'orto botanico, l'allestimento del vivaio che occuperà il terzo piano del padiglione Italia, nel cuore dell'Expo 2015. Ogni regione sarà rappresentata da una pianta, ad esempio la vite per il Veneto e la barbatella per il Friuli Venezia Giulia, all'interno di una scenografia dove saranno ricostruite le diversità dei suoli. Il pavimento sarà inoltre rivestito con stampe delle piante dell'artico erbario e una gigantografia dell'orto botanico troverà posto all'ingresso unitamente a quella del giardino della biodiversità. Nel parco di Expo 2015 sarà infatti allestita una mostra sulla biodiversità che ospiterà la collezione storica degli antichi semi di piante selvatiche provenienti dall'orto. Il centro di Ateneo dell'Università di Padova sarà il protagonista, nell'auditorium del padiglione, di 2 eventi a carattere scientifico e di altri 8 eventi nel parco. Un altro prestigioso risultato è stato conseguito dall'Università, la richiesta di collaborazione da parte di Women for Expo nel progetto di lotta allo spreco alimentare, che è un argomento di scottante attualità. Sì, direi proprio di sì. L'orto botanico conquisterà in tal modo una visibilità straordinaria presso milioni di visitatori, come ha sottolineato il responsabile dei contenuti espositivi del Padiglione Italia, Paolo Verri, parlando di centralità inevitabile. Una università così antica non poteva che avere questo spazio, visto che parliamo di conoscenza, di innovazione, di ricerca e di impresa. Bene. E diciamo che è stato un argomento che spero i nostri ascoltatori abbiano trovato estremamente interessante. E vorremmo concederci in calce così alla trasmissione questa volta un piccolo, come dire, spazio di autopromozione. E volevamo rendere così edotti gli ascoltatori e le ascoltatrici che la scorsa trasmissione abbiamo tagliato un traguardo per noi prestigioso ed impensabile, quello dei 5.000 contatti su internet. E allora chi parla di digital divide, cioè del divario digitale eccetera, o forse no, non è informato, oppure i nostri ascoltatori sono di una qualità eccezionale. Naturalmente lo sapevamo già. Sì, Antonio, so che questa cosa ti piace moltissimo. Queste cose mi piacciono perché dicono due cose, che c'è un interesse in quello che facciamo e allora noi ci sentiamo spronati a fare sempre meglio, certo. Chiaramente, e che i nostri ascoltatori sono di qualità elevata, soprattutto le nostre ascoltatrici, devo dire. Tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Salutiamo e saluto... E noi ringraziamo ancora, eccetera, e anzi potremmo anche fare una cosa, invitare i nostri ascoltatori tecnologici a divulgare presso i loro amici questa nostra trasmissione in modo che, insomma, noi la pubblicità è l'anima del commercio, si dice un tempo. Ma guarda, tu sei un buon ma non lo so, staremo a vedere. Nel frattempo non possiamo fare altro che ringraziare di nuovo tutti per la loro pazienza eccetera e invitarli alla prossima trasmissione che parlerà di poesia eccetera. Lasciamo così indefinita non diciamo protagonisti, ma anch'io saluto affettuosamente col mio solito ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.